Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema. Centro histórico, medieval, renascentista, ruas pedonais, bicicletas, milhares de pessoas, praças, ruas, avenidas, há música por todo o lado. Piazza Trento Trieste, Via Musini, Via Garibaldi, Piazza Cattedrale, Via Cairoli, Porta Mare. Há música por todo lado. nella gola di la stasera. Musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò. Stasera tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Lo scorpionismo. Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla pane sale mi stava lì vicino, io ti guardava con malinica. Corso della Giovecca, via Romei, via Bologna, há vozes por todo lado. Marcanda, io ti guiderò. E non la conosco. Corso della Giovecca, via Romei, via Bologna, há vozes por todo lado. Scusa un attimo. No, perché altrimenti rimane nudo. Non mettermi le mani lì. No, là, qua. Oh, là, grazie. Sì, così, ancora. Allora, oh, che bello. Dammi. Mi piace di più, se tu dammi. Dammi. Che bello. Gli amici, una chitarra. Guarda cosa sta facendo lui, guarda. Sta spegnendo il fiatore. Io speravo che fosse il segnale di qualche cosa. Questa sera... Ma non c'è un microfono? E viene dell'Africa dell'Ovest e sta un strumento che è fatto con legno di Camerun, il nome è Padu. E la casa di resonanza normalmente è una cabeza e qui sta con Padu. E tiene quattro buchi come con la carta. E l'istrumento da toccare è molto difficile, però una mano face una cosa, altra mano un'altra cosa, muy difficile. Sono con quattro musiconi, una musico, dos, tres, cuatro. Molto importante per te, però quando tu paga, tu paga meno. Via Volta Paletto, Via San Romano, Porta Reno. Há gente em todo lado. Now for him we are going to play the O Sole Mio. No. No. O Sole Mio or not? No. Hands up. O Sole Mio. O Sole Mio or Piazzolla? O Sole Mio or Piazzolla? You can choose. O Sole Mio. O Sole Mio. O Sole Mio. Piazzolla. Piazzolla. First, also Lario, then Piazzolla. We can wait. You know, broadcasting and... Thank you. fresca, pare già una festa. Che bella cosa una giornata sole. Anna, tu sole, più bella in me, o sole mio, sai la flore se a te. Castello Estense, Via Rampari, Piazzetta San Nicolo, a vida por todo lado. Castello Estense, Via Rampari, Piazzetta San Nicolo, a vida por todo lado. Castello Estense, Via Rampari, Piazzetta San Nicolo, a vida por todo lado. silly. Ain't she sweet? Ain't she nice? Look at her once or twice. Now I tell you very committed, silly. Ain't she nice? Kind of meat. I will tell you very confidentially. Ain't she a dolce mai così, devo dirti confidenzialmente che lei è così, non lo sai, dai un occhio e capirai, devo dirti confidenzialmente che non lo sai, un occhio in quella direzione e tu vedrai la perfezione, ah, sì, sì, sì, mi ripeto mai così, devo dirti confidenzialmente che lei è così, l'altro ti accoglierà tra gnomi delle terre arcane, satiri, foglietti e musici, spazi lungo le fontane, e se ti giunge l'eco della civiltà, manderà a farsi piagare, dai graffiti nella fabbrica, dai gioielli sull'altare, dai graffiti nella fabbrica, Piazza Trento Trieste, via Musini, via Garibaldi, Piazza Catedrale, via Cairoli, Porta Mare, há música por todo lado. Centro histórico, medieval, renascentista, ruas pedonais, bicicletas, milhares de pessoas, praças, ruas, avenidas, há música por todo o lado. Na projeção de hoje, lá a banda Balsalti, Ricardo Saló, Henrico Caruso, Inês Menezes, Cristina Santos, Legendas, João Félix, Hugo Dolores, Luciano Pavarotti, Giuseppe Verdi, Puccini, Vivaldi, Rossini, Quattrocelli, Barravento, Fábio e Beppe, Carlos Vamos e todos os sons recolhidos nas ruas e praças da cidade de Ferrara, no nordeste de Itália, durante o maior festival de músicos de rua do mundo. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema. Música.